fare per forza, però si arriverà alle guide. Noi abbiamo conosciuto un libro appena edito. I'm gonna be prepared. libro ese y ya le quito también el límite, estaba por ponérselo a la Taino, tío. Qué pena, va, macho. Para el coche, ¿no? Sí, sea, mientras que luego ya puesto el puesto lo que sea, pues ahí estaremos, ¿vale? Venga, tío. se noi lo vediamo lo cambia. Lascia perdere. Mi sa che quanto ne penso io, eh. Spagnolo. Vabbè, se lo dici te. Ora. Ora. 1, 2, 3, prova. Abbi fede. Mi sembra uguale perché io mi sto ascoltando e mi sto monitorizzando con un altro apparecchio e mi sento bene, boh. Oh, sento Antonio, vediamo un po', vediamo, se promette, sento Antonio, senti un po'. Cava, cava. Hola. Hola. Prima Barley per forza e poi fare sud nord Damato. Comunque, hola, hola. Comunque sei a posto il microfono, non c'è più nulla. Ma non è la tua modulazione già, no, non ti offendere, ma io ti sento diverso. Fuori per dire la verità, ma erano di quelle piccole che ce le buttate in acqua. Per me è nulla, perché cosa sono piccole ce ne vuole. Beh, quello che faccio io lo stesso. Quando sono piccole, io perlomeno, io già entro in acqua, non mi metto problemi per quello. Quando mio compare pesca roba piccola, butta via tutto. Metto anche la zona di Alghero, sta pescando poco, L'hai verificato tu, non sei andato a Alghero l'altro giorno? No, poi non ci sono andato. Ah, non sei andato? No, non ci sono andato, sono andato a Pacamone il giorno dopo. Scappa, scappa. E comunque, casino, non ce n'è. La zona buona è Porto Torres, se è corso, stavolta. Beh, dipende, dipende. Ma cosa vuoi dire? Basciscia. Sì, vabbè, chi pesca con la canna deve avere un po' di pazienza nel far che, non è che può tendere subito di pigliare, di cose, deve avere un po' di tranquillità, di pazienza. Adesso diciamo che un po' meno, perché non fumando è un po' più dura. Ti do poco tempo già e riprendi a fumare. Vabbè. Allora chi? Non mi conosci tu. Quando io dico no è no. Una forte volontà io che tu non ti immagini nemmeno. Non mi sento stare dimagrito, ho dimagrito 50 kg, non ti riguardo. Sì, non vuol dire quello. Non vuol dire. Vedrai che tu prima o poi, tardi o chizzo, riprenderai a fumare, tranquillo, vai. Ma mai dire mai. Io sono già 3 mesi che non fumo. 3 mesi e non sento nemmeno la necessità di farlo. Solo quando vado a pescare, mi ti ripeto, perché mi faccia compagnia la sigaretta. Cappa. Oh, se così è buono, se così ce la fai è buono. Io ripeto, sono 4 mesi e non tocco sigaretta e non mi interessa neanche. Tu hai smesso? E allora? E la gatta fa che? Se cazzo se tu eri momento che noi abbiamo smesso, siamo noi 3 mesi, tu hai smesso prima di noi. A voglia già. Sarà grande, sono 4 mesi grandi e guarda, ti posso dire che sto troppo bene. Anche io sto bene, mi sento senza cantare la mattina, mi sento respiro più tranquillo, vuol dire molto, tosse, niente. No, il fumo uccide. Non so, ma purtroppo ho visto molto, perché se tu pensi l'altro che fai, non ha senso fumare così. Certo. Io molte volte cerco di convincere la 50, ma non c'è, guarda, non c'è modo e cosa per farla smettere. Purtroppo lì ha iniziato a fare. Avrà avuto un 13 anni, 14 anni e non c'è Cristo a farla smettere. Sì, mia madre diceva volere e potere, se vuoi puoi. Beh, quello è vero, ci vuole molta forza di buona volontà, è vero. Molta forza di buona volontà, infatti lei è rimasta stupita, già, non mi interessa più e basta. Per me non ho dei risparmi, sono delle sigarette. Beh, quello sì. Certo che no, mia moglie a me mi ha dato la lezione, me l'ha data lì, come è rimasta incinta della prima bambina, e come ha saputo che era incinta ci ha buttato le sigarette e le ha più toccate. Mai più, Ma perché tua moglie fumava? Sì. Vabbè, quello è un bene. Come si è messo che era incinta? Dopo le analisi, ha detto che era incinta, le ha mollate subito, non le ha più toccate. Mai qua, che bene, non ha tirato niente. Anzi, di tanto di cui ho partito, quando mi vado in casa io ho partito. Beh, certo, smette poi. Ricordiamo quando si smette, si riacquistano tutti gli odori, gli olfatti, sia del naso, sia della bocca, sia di tutto. Dà fastidio, la verità si dica. Beh, sì, è vero. Dà fastidio, sì. No, io... allora che tu riprendi a fumare, scusa. Che discorso hai fatto poco? Ma tu hai smesso lo stesso e l'età ma che io riprendo. Pensando a questo, perché te la ripeti anche tu. No, io lo stavo dicendo perché molte volte il fumo passivo, no, ti porta sempre a cercare di fumare, diciamo, di riprendere a fumare. No, se per il mio discorso no, assolutamente no. Se si decide una cosa, si decide e basta. Beh, il fumo passivo ce l'hai più tu a casa che tua moglie fuma, io a casa non c'ho nessuno che fuma, le persone con cui esco non fumano più, quindi il fumo passivo proprio non è mio. La mia fregatura è quella, capito? Però non è che mi interessi molto, è negativo da parte mia, cioè vuole fumare, fumo, il fatto vuole fumare, ma non mi fa né caldo né freddo, l'importante è che non fumi davanti a me. Per me è perché c'è tutte fesserie, c'è fumo ancora. Se tu hai in mente fare una cosa, se hai forza di volontà, non ti ne fai nulla di chi ci guarda in Italia. Chi non lo vuole fare non lo fa, non ci si mette nemmeno. Io ho un'amica che a me mi ha detto, a me non me ne frega nulla se mi fa venire il cancro e cose. Io sono una vita che fumo e continuerò a fumare perché a me la sigaretta mi aiuta nei momenti tristi, nei momenti di debolezza, nei momenti che sono nervosa, mi aiuta, c'è poco da fare. Ah beh, quello è vero, chi fuma è... No vabbè, ma a me non mi interessa molto più di tanto, io quando prendo una decisione sono testardo e la porto avanti. Ma io non dico nulla, io ti dico una cosa, sono stato 8 mesi che non fumavo e poi ho ripreso. Però quando ti trovi vicino una persona che ci insieme, in macchina fuma insieme, fuma, ti offre la sigaretta, ti tenta, ti invade, alla fine poi è normale, no, che anche il tossico che ha smesso di drogarsi, se trova un drogato e gli offre la droga, ci casca di nuovo. Ah, beh, quello sì. Ah, io ti posso dire che ho fatto servizio militare e 10 mesi non ho fumato, ho fumato i primi 2 mesi, poi 10 mesi è stato che non fumavo, poi ho conosciuto mia moglie, lei tappa e si è comparato d'oro. Sono cose, ma non sono cose che magari non puoi controllare, se vuoi sono cose che puoi sicuramente controllare, cose, ma è che penso che se uno vuole può, quella è la ragione. Sostituisci la sigaretta con una cingommina, con una cazzata. Cappa cappa. Andrà bene, va bene, già, che adesso una commissione. Ciao, vi ascoltiamo tutti i prossimi video, già, ho fatto piacere ascoltarti. Saluto a te e guardiamo la famiglia, dai. Scappa, fa anche, dai, con la cabeza di un francese, tanto io non è entrato, io per lui. Ci sentiamo, là. Ok, ciao.